Buonasera. Ciao Giulio, ciao a tutti. Ciao. Aspetta, Cristian, così, Cristian, tu sì. Ciao Cristian. Va bene, stai andando bene, già ti sento bene. Ho il tuo boccione di lusso. Bene, bene, c'è anche Bruno, c'è Bruno Lagano e Gianni anche. E qualcuno è in ascolto ma non hanno voglia di entrare perché si sono fatti sentire poc'anzi, ma adesso sono all'ascolto. Avanti ancora Cristian, perché vuoi, vai, o Bruno o Gianni. Mi stavo ascoltando le cose di pesca, che cosa si può pescare, il mare è il mare. Avanti Gianni. Ciao Cristian, buonasera anche a te, dai, dove stai andando? A Platamonte? No, sono già stato per un amico al CRCS che non mi ha capito la macchina. Ma ciao, ma anche la piegata hai per caso? Che cosa? Ho visto anche la piegata, la tua, l'altra sera. Ma io non riesco a capire cosa dice, non sento troppo sei fatto da fuoco. Ho visto l'antenna piegata, la tua, l'altro giorno. Quella si piega sempre, quando c'è vento è come una canna da pesca, si piega. No, piegata nel senso che si stava come piegata in tutti i sensi. No, stai sbagliando. Sicuro sì, ma poi sei andata la tua, oppure? Allora non sai dove abito, perché la mia è dritta, l'ho vista anche stamattina. Allora, illusione ottica, dai. Allora, quell'antenna lì si piega come una canna da pesca quando prendi un'orata a 4 kg. Quando c'è molto vento si piega così, poi si riattrizza. Illusione ottica, dai, mi sono sbagliato io, là. Ti potrei anche sbagliare nella vita ogni tanto, là. Magari ti sei confuso, hai visto qualche altra antenna, non lo so, dove sei passato tu? Sono da casa tua. Non lo so. Andare, comunque, almeno che... Quando è successo questa cosa che hai visto l'antenna così? Sono due giorni fa più o meno. Ah, no, è dritta l'antenna, l'ho visto stamattina io. Va bene, dai, riprendi Bruno. Ok, saluto l'amico. Ma comunque già, lì vicino da noi c'è stata una tromba d'aria il giorno scorso. Da noi ha fatto danno. Fuori, sulla Budimonte, di fronte al distributore dell'aereo, un palo lo ha piegato, figurati il vento, che era una specie di tromba d'aria. E ne ha buttato una roba da noi, ha fatto un casino. C'era roba che la gente lasciava nei terrazzi, ha fatto volare quanto c'era. Dunque, ecco, sta facendo questa specie di tromba d'aria di colpo che non si riesce a capire. A parte che in Campania si ne ha buttato anche gli alberi, vabbè, ha distrutto tutta la campagna. C'è stata la campagna di Aldo, c'è la campagna dell'altro mio fratello, nessuno. Vabbè, ok, comunque già, lo sai cosa ti dico, non ho una barca, io sono tutti i giorni a Platamona, tutti i giorni non c'è una Platamona, c'ho gli amici che pescano lì con le canne, abbiamo il camper lì, e qualche volta viene anche Franco, mi ci viene anche lui, perché già camper lì ci mettiamo a pescare, lì è bello io, anche se tutti i giorni devo vedere il mare, se non faccio il mare divento mancante, tutte le mattine io, anche mattina e sera molto noi, tutti i giorni a Platamona. Vedere il mare, ragazzi. Avanti Giulio! Ok Bru, beh certo che chi ha la passione per il mare già è bello frequentarlo e non ci sono dubbi. Poi la pesca è uno sport diciamo molto sano, non ti rilassa veramente, no? Non ci sono dubbi. Io veramente devo dire che non ci ho mai provato a pescare, dunque no. Io a pescare sono sempre andato al mercato, ho sempre pescato sicuro lì, chissà perché non ho mai avuto una giornata grigia. No, mi piacerebbe anche pescare il mare, ma con che cosa? Che io non ho nemmeno l'attrezzatura e poi non ho nemmeno la passione per andare a pescare. Così, solo per curiosità, avrei voluto provare per vedere se sono fortunato pescando o meno, ma penso proprio di no, perché sono sicuro che mi tancherebbe subito, perché io sono fatto così e... Ho subito successo oppure abbandono subito a distanza senza stare lì a perdere troppo tempo. Sono fatto così. Avanti Cristian. Qua tu pesca al mercato, io pesco, io faccio la telefonata e poi ce la porto a casa. Parla un po' distante dal microfono che ti sento tutto il discorso è tu pescato al mercato, io pesco direttamente, la telefonata la porto a casa. Ma poi non è la stessa cosa, prendere il pesce e portarlo a casa, pulirlo e cucinarlo subito non è la stessa cosa che prenderlo al mercato. Al mercato è pure un faccio di 3D. No, no, ma ho fatto la foto a te, sono amici miei. Ah, sì, vabbè, comunque è una cosa diversa sentire il pesce che si attacca, portarlo fuori, e devi avere la passione. Se non hai pazienza, meglio che non ci vai, perché la pesca è così, ci sono momenti che mangia, momenti che non mangia, ti devi fare la chiacchierata con gli amici, ridere, scherzare nel mentre controlli le carte. Devi dire a me che a casa non dimenticare la pesca. E io qua sono, andiamo, poi cavolo, ogni volta c'è qualche imprevisto e non ci posso andare. Le canne sono tutte ferme, ingrassate, fatte, e stanno aspettando per andare. Io a casa ho la merito di 20 canne da pesca, tutte già armate, già messe bene, e per andare a pescare non ne ho più. Io ne ho 5 di canne da pesca, però sono tutte con mulini di Shimano, sono canne da pesca Olympus, sono tutte canne da pesca buone, capito? Io come invece? Io ne ho una da 7 metri, però ho costruito un'antenna che ce l'ho messa da parte così in un angolo appoggiata a Gianni. Con quella non posso andare a pescare, eh? Fare un po' di spesa, allora ci sentiamo fra un po'. Vai con la canna fissa e puoi pescare lo stesso. Ciao Cristi. Ok, ciao Cristi, ci sentiamo nel prossimo. Allora che tu dai, dai che mi hanno chiamato un attimo giù, forse è arrivato qualcuno dei miei, forse mio fratello, non lo so, devo scendere giù Gianni, perché mi hanno fatto uno squillo, mi hanno fatto, ma adesso scendi, va bene, sto scendendo, chiudo, saluto gli amici, ho detto e scendo. Va bene Gianni, dai, ti saluto, grazie per la chiacchierata, ciao Bruno, grazie anche a te per la chiacchierata, Cristian e quanti ce ne sono in ascolto, salutoli a tutti, io ascolto Finalino e dopo sono costretto a scendere per forza giù, dai, che c'è sicuramente qualche mio fratello, non lo so chi, però uno dei miei fratelli sicuramente. Avanti ancora Radio Bruno. Giulio, a proposito dei fratelli, siccome io ho paura non vedo Annello, io non so se tu hai ancora, se lo vedi tanto, salutamelo, perché lui non sa che ho cambiato casa e telefono, lui c'ha il vecchio telefono, che lo sa, se l'aveva registrata a memoria per chiamarmi ogni tanto, ma non c'è più visto, per cui se vede Annello salutamelo. D'accordo Bruno, non c'è problema, sicuramente lo sentirò anche più tardi, se non è lui adesso giù, ma non credo che sia lui, perché lui non, in questo momento non sta molto bene, ha dei dolori ad una spalla e dunque dovrà essere probabilmente operato anche lei, è stata già operata la gamba, al femore, è stata operata ad una spalla, adesso c'è l'altra spalla, purtroppo è messo male, ed è il più giovane di tutti a casa, perché ha 60 anni appena, 61, eppure è messo male a livello di dolori, dai, per il resto va bene, comunque te lo saluterò senz'altro, alle prossime, dai, comunque ricambiati la parte sua. Ciao Bruno, ciao Gianni e ciao Cristiano, curati per me, ciao, riprendi pure, vai. Ciao Giulio. Ok, troppo qui non lo devo, lavoro, sono contratto, vabbè, dai, siamo come tanti, siamo guadagnati, va. Proprio, è una vita, dalla vita. Ok, già, riprendo, no, io stavo dicendo, c'è nella pesca, ho risolto il problema, perché quando ero in garage là con Aldo, avevo la rastrelliera, tutta piena di canne da pesca, tutta piena, ma di tutti i tipi, per la strada, per il caffè. Ho risolto il problema, un po' li ho lasciate là, un po' li ho regalate, sono andato, sono in questo campo da niente, ho comprato due canne da pesca, due nuove, moderne, di quelle belle, di lusso, due molinesi e poca roba, perché non ne voglio più sentire di avere 20 canne da pesca buttate in garage, manco per niente. E io invece l'attrezzatura ce l'ho tutta e quando vado a pescare c'ho un po' di roba, c'ho piombi, c'ho ricambi, c'ho tutto quanto, di modo che se c'è qualche problema con la canna, che ti si rompe qualcosa, c'è anche il ricambio appresso, capito? È un bel bisanti la borsa, infatti ogni volta dico se andiamo vicino, ok, se no mi prendo solo la roba che mi occorre, c'ho tutto Starlight, c'ho ami di tutti i tipi, c'ho piombi di tutte le dimensioni e di tutte le forme, insomma, ho di tutto, girelle, risi, di tutto vaggio, però quando vado a pescare mi si tronca le spalle, vabbè che quando arrivi lì tutto ciò che tu, che cerchi c'hai, capito? adesso sono un po' che non vado, sono andato con lei, è d'estate, sono andato, ho preso l'oratina, ho sarago e alla fine stavo recuperando, ho preso una morbola e di notte questa roba l'ho presa di notte, di sera verso le 8 e qualche cosa, che allora che d'estate c'è luce là, però la mormora l'ho presa di notte. Il pesce manca, eh. Cosa? E manca il pesce. Manca il pesce? Sì, ma non capisci, manca il pesce. Come manca il pesce? Il pesce già vero, interessante piccarlo. Interessante andare a pescare, non è a dirlo solo e poi non andare. Non so, ciao già, sono appena acceso. Ho sentito che tanta roba, però manca il pesce. Ah, no, mi sembravi franco. Infatti ti ho fatto la portata. Bene, continuate. Ciao Tino, ciao. Le caviette bene stanno? Le ho tutte date, tutte vendute. Ma sono rimasto padre e madre, adesso di nuovo incinta, quindi. Se non le porti là, già te l'ho detto, dove portarle, se le compri. No, non le porto per principio, perché prima le pagava bene, adesso ho passato il prezzo e non va bene così, capito? La comodità non va bene. A me mi dava 10 euro l'uno, mi pare, che se lui ce le vendeva 30 euro, 25 euro, dipende. A me me l'ha pagata, scusate, non so neanche chi c'è, comunque salutone, me l'ha pagata 12 euro l'una, poi è abbassato a 10, e poi è abbassato a 8, poi me l'ha abbassato a 6, e fa una cosa, ciao. È uno strozzino, eh. Me l'ho venduto lo stesso, quindi. Non so chi c'è, fai girare già. Ah, dai, c'è Bruno, Uragano, Cristian, e poi non so se ci sia ancora Luca, vediamo un po'. Luca, ci sei? Niente. Bruno, riprendi. Vabbè. Il problema è che bisogna andare a divertirsi io, anche se non sto prendendo niente. Io tutte le mattine alle 5 ore sono ancora a Monaco, mi ha iniziato a per lì, insomma, anche Franco viene da un altro. Lui lo conosce, è un siciliano, che si è trasferito lì, sta a per lì adesso, sono ancora a Monaco. E questo usa la tecnica e ti dico che tutti i giorni, le sto vedendo io, una mattina, capito, sta prendendo qualche cosa, però usa una tecnica che io non ho passione, a brumeggiare, a fare, va a prendere. Viene anche Franco, viene con tanto, gli fa soltanto e si mette a pescare, anche l'altro giorno ha pescato anche lui. Vabbè Franco, non so se ci sia ancora, Franco sì, non c'è. Lo so che viene lì, già ho capito dove lì al presidio militare. Sì, vabbè, noi siamo lì. Volando, non è che andiamo, adesso cominciamo a pescare un po' meglio perché il periodo scorso c'erano i bagnanti, per cui alle 8 e mezzo quando andavano i bagnanti dovevano tirare tutto e invece adesso sono stati una mangiamo i bagnanti, fatto queste giornate così, anche se viene bagnanti di tanto a tanto è distante. Io sempre perché sono loro che pescano, io cambio, non sono neanche pensato a cambiare, figurati. E trattando con loro, vediamo una cosa, ogni tanto, una cacciatina, vediamo un caffè, e poi ce ne abbiamo messo. Probabile che sabato domenica venga anche a perché lui, insomma, lui scende lo scampo e si fa anche la montata. Già lo so, sì. Vabbè, comunque, anche io andavo lì a pescare, però andavo di notte, capito? Non ci andavo di giorno, andavo di notte, dalle 8 che cominciavo a piazzare le canne, quando andavano via tutti, cominciavo a pescare. E a quell'ora lì, verso le 8, ho lanciato la volta, appena lanciato, la canna si è bigiata, l'ho lata a 3 kg e passo, ho preso. E poi mormore belle, ho preso anche qualche razza, insomma razzette però non grandi. Qualcosa c'è, per esempio io sono anche meravigliato, io lascio, uso lo verde, non mi uso bigatti, uso niente. C'è cosa siciliano che sta lì, credo che sia buono, non so se in ferie, se sta sento, è un paio di mesi col campo, è fisso lì, fisso. Questo è una tecnica, questo è più brumeggia, bigattini, non si chiama tutti piccolini. E là c'è di vicino lì a pochi metri. Oh, tanti sta. E la tira, le cose, le sta tirando fuori. Quasi tutti i giorni. Per dire, io molte volte vado, non prendo niente, sto un paio d'ore, io comunque notate non mi faccio più, non mi fa niente, io non ci do neanche più passando. Una volta le ho fatte queste cose, adesso mi è arrivata anche ancora la tenda da pescatore, con le tende che piacciono un attimo, che hanno la cenia lampada, il vero, non sono un attimo di dentro, con le cani a mano. No, no, adesso vado, c'è la giornata bella, e poi al mattino alle 8 alle 9 mi chiudo tutto, io non ho più voglia di fare nottate come facevo una volta. Oramai, gli altri stanno cominciando a ruggire dalle 8. Lo so, anche io ho dolori, membro. Però dalle 8 fino alle 11, 11 e mezza me lo faccio quando vado. E ti dirò che prima fumavo un po' di più il tempo mi passava, adesso un po' mi annoio perché non fumo, quindi prima facevo lanciata 100.000 sigarette, adesso sono più di 10 anni che non fumo, quindi adesso un po', diciamo, non so cosa fare, dopo che lanci ti mosi e un po' devi stare a aspettare senza fare nulla, mi capito? Il problema è quello, che prima mi accendevo le sigarette, ma me ne fumavo più di 40 sigarette. No, ma infatti anche io ho 5 anni che non fumo più. Io sono 5 anni che ho buttato via le sigarette, di colpo, senza, quando porto il vino, pigliavo un sacco, e porto il vino, e se l'ha mangiato la sigaretta, perché si è stato lui, si è bruciato il polmone con la sigaretta. E ho detto, ma si cazzo, un giorno, ma proprio, forse qualche giorno dopo che porto lui. Stavo andando a Porto e mi sono fermato a una macchina a comprare un pacchetto di sigarette. Sono preso le sigarette, mi sono chiuso in macchina, sono partito, poi chissà cosa cazzo ho pensato, no? Mi sono andato a capo, anche a macchina, ho preso tre giorni e ci ho buttato un pacchetto di sigarette, stavo appena a comprare. Io sono 5 anni che non compro sigarette. Però come dici tu, quando andavo a pescare, che passavano le ore, questa sigaretta, mi fa via compagnia, non c'è niente da fare. Adesso però mi distrago perché ci sono gli amici lì, ma noi molte volte teniamo anche il giorno le cani a mare, perché, ripeto, ci sono gli amici, la gente canta, vai, corri, abitano lì, abitano lì, stanno mesi, per cui diciamo che non ti annoi lì, molte volte ci facciamo una passeggiata, proviamo, andiamo al bar, se prendiamo un caffetto, noi, e cosa vuoi fare? Una voce di confessione, è presto. Sì, avanti chi vuole entrare. Vabbè, non stai uscendo. Non stai uscendo. Niente, sono che non voglio entrare. Riprendi il tuttino. Riprendi. Ma Rottweiler che c'hai, l'ho visto oggi, bellissimo. Bello, vero, non ti scatto, perché ancora non accetta bene le comande. Sta adattando piano piano, adesso è abituato, scopo proprio in camper. Adesso è abituato ancora in casa, molte volte quando si mangiava, no, è fuori. Molte volte non vuole uscire. E si comunica, si siede lì, dai, all'entrata di casa, all'entrata della porta. Insomma, ci vuole un po' di polso però. Lo so, ci vuole carattere con quei cani. Come carattere, com'è? Ah, bravissimo. Bravissimo con le persone, bravissimo con i cani. Non è di quelli che quando vede il cane si mette a abbaiare. Lui gli ho insegnato a sedersi e se lo guarda. Poi se è un cucciolotto, per dire, o anche un adulto, lo faccio avvicinare piano piano, si adora, ma niente di che. Ma non è un rompiparla per quello. Vabbè, perché quei cani lì solitamente sono aggressivi, hai capito? Se tu li abiti però a educarli come si deve, se riesci a educarli poi ti danno il cuore, sono cani normali, però ci sono quelli che ti abitano a morsicare le camere d'aria, queste che ti mettono sull'albero, quando li fai così, li tirano, li fanno, ci abitano a morsicare, capito? La propagazione. No, per quello no. Poi insieme al controtedesco, quindi con lei è adulto. vita, ha 8 anni, insomma si fa rispettare. Femmina al passaporto destro? Sì. E lui è maschio, così è? Sì, lui è maschio. L'ho avuto come maschio perché insomma ho un problema con le femmine, nel senso che lo mettono incinta. Lo so, piaccia le cambie che ti fanno i figli da tutta la... È vero. Ho fatto 7 figli, 7 cuccioli fatto tedesco, ma non sono riuscito a darli tutti, perché è un problema poi, capito? Non è che, cioè, non è tanto che rimane incinta, è il problema che devi tenere almeno 2-3 mesi, quindi devi andare a mangiare, devi accudire, sono sempre in mezzo ai piedi, poi sta arrivando anche il periodo dell'inverno, è ancora peggio, capito? Sì, è un lavoro, poi li devi sverminare, fare. Erano puri quei pastori tedeschi che sono nati, erano puri? No, devo dire la verità, puri no, è incrociato con un belga. Sì, vabbè, ma più o meno le razze sono quelle, là. C'è anche il pastore tedesco nero, quindi è confondibile. Sì, infatti 4 erano neri. Ma anche il belga già è bravo, io mi ricordo che avevo regalato un pastore belga a un amico in campagna e c'erano le reti delle olive, perché i cacciatori entravano a cacciare e schiacciavano tutte le olive, cazzo, è partito il cane e si è attaccato a questo cacciatore, cazzo, proprio buono, non si domani. Se non si metteva la padrona a tirarlo, a farlo, gli ha detto: ma quando mai dovete entrare in campagna degli altri a schiacciare gli ulivi? Non lo vedete che ci sono le reti? Ma mi sono scappati i turdi e sono andato a prenderli. Vabbè, c'è gente anche maleducata purtroppo, e ci piangono quelli che sono educati. È fatto. Avanti Cristian, ci sei? Sono appena rientrato, Chiari. Ciao, qui. Ok. Ma questo? Mi ha spavaldi il calcare 212. No, Dio, non sta più entrando. È pensionato, adesso è in ciabatte, sta solo ascoltando. Quando la turdi, c'è un rimedio, la carabina. Aspetta, che non sentite, hai capito qui? Eia. Ho detto, Claudio, è pensionato, è ciabatte, adesso sta in divano ascoltando e non vuole entrare. Io non sono Claudio. Sono confuso, ti scuso. Io non stuzzico a Claudio, ma tanto non entra. Ma ora io mi saluto. Tanto, uia. Non mi lascio un attimo in pace. Tiro, comunque c'è pappagalli parlanti adesso. Da ti fanno compagnia. Andare. Saluto, magari già. Anche io mi ho guardato in Corrix, che mi sto guardando due cosette, qua e poi, al limite, devo uscire a prendere anche mio figlio, deve rientrare, quindi non so se rientra. Corrix per me, ne approfitto io ormai. Ti rilancio già, così aspetta i saluti e poi vado via. Ehi, anzi, dai, ci sentiamo, mi ha fatto piacere. Sono entrato mi stasera per vedere se c'era gente, e meno male qualcuno è entrato. E via. Quindi ho fatto girare un po' tutti i baracchini che erano fermi tutta l'estate, sempre fermi, non accendevo mai. Entravo, accendevo e poi non c'era mai nessuno, spegnevo di nuovo. Capo, dai, ci sentiamo, fate sentire. E così almeno ci facciamo 4 chiacchiere. Ciao Cristian, ciao a tutti gli altri amici che sono in ascolto, doppio lungo RT esecutivo. Ciao! Claudio, ti fatti vedere ogni tanto a casa, Dai, pure dai avanti. Sì, sto rientrando tardi, mi sono portato adesso la doccia. E poi non vado a prendere il figlio. Già, adesso sentiamo, non c'è problema qui. Va bene, anche io in Corrix, dai, ciao, riprendi qui. Sto guidando, adesso è in mezzo al traffico, va. Andare, ciao a tutti, ciao. Ciao. Chi è basso di radio, avanti? Chi è che ha salutato? Ah, so, che a me era basso. Vabbè, io sono in ascolto, va, ce n'è un po', poi vado via. Io ce l'ho quello qua, me ce l'ho più. Avanti. parte, chi è? Collega, mi scusi, campione. Collega, collega, mi scusi, prego. Binario 10, Binario 10, copia Antonio Cappa.